senti, vedo il QRM. Cosa hai detto? Ah, adesso mi senti. Perfetto, prima come sentivi? Prima come mi hai sentito? Come sentivi? Ah, sei in movimento in barra, ho capito. Comunque tu hai sbagliato, non è attivo, io sono Uranio K, Uranio dalla colletta Usiro, a te cambio, dai. Allora affrettati a cercare il distributore, se no rimane a secco, piedi. Ti sto perdendo, Ti sto perdendo, stai entrando in zona ombra e ti ho quasi perso. Ok, dai. Attento, l'amico. Sei entrato in zona ombra e ti ho perso, ma il tuo segnale comunque è basso. Ok. E lì ci sono zone d'ombra, secondo dove entri con la macchina in movimento. Zona d'ombra e ti nasconde, diciamo, e ti porta via il segnale, dai, comunque normale è amministrazione, ok. Perfetto. Come stavo dicendo da prima, affrettati a cercare, diciamo, la situazione, se no quella quattro volte ti lascia, diciamo, a piedi. Sono le 10, attenzione canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Attenzione 10, attenzione Uranio, ci sei? C'è qualcuno su 10? C'è qui canale 10, c'è qualcuno? Attenzione 10, attenzione canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Attenzione canale 10, c'è qualcuno? Attenzione 10. Attenzione canale 10. Attenzione 10. Chi sei tu? Vieni avanti, via. Avanti, chi c'è? Attenzione, sono 10, c'è nessuno? Attenzione, sono 10. Oh,